riforme, come è stato l'atteggiamento generale della classe politica negli Stati Uniti rispetto alle disuguaglianze che sono presenti all'interno di questo paese, mette in luce in modo molto attento, acuto. E delle persone e delle libertà nel loro insieme. Un clima che si tocca con mano nei nostri paesi, dove indici di criminalità percepita sono decisamente più elevati di quelli della reale criminalità e dove i crimini commessi da immigrati riempiono le prime pagine di giornali e divengono argomento di dibattito dei talk show televisivi per settimane, mentre normali omicidi domestici, per quanto efferati e tragici, vengono relegati nelle pagine della cronaca nera e considerati eventi di normale criminalità in una società evoluta. La paura non è mai una buona consigliera e nessuna forza politica dovrebbe giocare su di essa. Rinchiudersi nel proprio ambito locale o nazionale, diffidare di chi è diverso, pretendere e proporre protezioni sono tutti comportamenti che alla lunga generano povertà, creano tensione, riducono gli ambiti della libertà e di fatto nuociono sia al mercato che alla democrazia. E se è vero che spetta all'azione di governo il compito di rassicurare le persone e di eliminare le incongruenze maggiori, tuttavia è anche vero che l'unico reale antidoto alla paura è la conoscenza, la sana curiosità del diverso, la comprensione e il rispetto delle opinioni degli altri. Per questo, anche per questo, come università che produce e diffonde conoscenza e che sulla conoscenza fonda la sua forza, noi siamo lieti di poter dare un contributo a combattere le paure e a preparare le persone, capaci di comprendere e di spiegare i molti eventi che ci circondano. Questo obiettivo di conoscenza è proprio quello che vuole fare un festival dell'economia, un luogo dove le idee si scambiano senza la pretesa di avere la verità, ma con la consapevolezza che ogni opinione è lecita e che dalla conoscenza di opinioni diverse possa emergere una migliore comprensione dei fatti del mondo che ci riguardano direttamente, anche con riferimento ai nostri comportamenti di vita quotidiana. Mercato e democrazia devono tornare a procedere di pari passo, anche nell'accezione dell'opinione pubblica, e per questo è necessario uno sforzo di comprensione dei meccanismi che regolano entrambi. Ma dobbiamo anche ricordarci sempre che questi due concetti si alimentano a vicenda e che entrambi non esistono in natura, ma sono il prodotto dei comportamenti e delle normative che sono state costruite nel tempo. Sta quindi anche alla nostra volontà, ai nostri comportamenti individuali e collettivi, dare spazio a entrambi, a mercato e a democrazia. Grazie. Ringraziamo Innocenzo Cipolletta, ecco, il presidente dell'Università di Trento ci ha già introdotto nel tema di questa terza edizione del festival, un festival che ha toccato sempre argomenti molto intelligibili e concreti, che si parlasse di capitale umano, capitale sociale, di ricchezza, di povertà. Il tema di quest'anno, mercato e democrazia, forse ha anche un appeal in più, ma perché è stato scelto e soprattutto come verrà declinato, questo ce lo spiegherà il coordinatore scientifico Tito Boeri. Grazie. Credo che come democratici noi non dobbiamo temere il mercato, perché se ci guardiamo in giro per il mondo e guardiamo anche l'esperienza storica, noi non troviamo condizioni in cui esistano dei mercati senza democrazia. Il mercato presuppone l'esistenza di regimi democratici, dove si è cercato di abbandonare il mercato non si è riusciti a mantenere in piedi delle democrazie. Questo avviene perché altri meccanismi di allocazione delle risorse finiscono inevitabilmente per creare dei conflitti che portano al fallimento di regimi democratici. Se guardiamo per esempio al collasso dell'impero sovietico, ci rendiamo conto che è proprio stata una lotta di potere, caduta l'ideologia, che ha portato al fallimento di quella esperienza. Quindi senza mercato non c'è democrazia. È vero il contrario, cioè è vero che noi si possa avere, esistono dei mercati in regimi non democratici. Dico, qui la risposta è più difficile. Eravamo abituati a pensare che fosse effettivamente così, e cioè che non si potesse osservare condizioni di mercato in regimi che non sono democratici, ma poi abbiamo dovuto fare i conti con alcune esperienze storiche importanti, prima quella del Cile, un'esperienza limitata nel tempo e piccola scala, poi più di recente abbiamo dovuto fare i conti con l'esperienza ben più rilevante anche per le dimensioni del paese della Cina. Con l'interrogativo che ci porremo in diversi incontri in questo festival sarà quanto può durare la crescita cinese in assenza di democrazia. Ci sono, a partire dalla lezione inaugurale che oggi verrà tenuta da Paul Krugman, esistono in un sistema di questo tipo il fatto che non vengono tutelati i diritti di proprietà, che non esiste un'infrastruttura per il funzionamento di questi mercati, che non si tiene conto di problemi molto importanti di distribuzione del reddito quando manca la democrazia. Ecco, tutto questo può portare questa crescita a continuare nel corso del tempo o non crea una fragilità intrinseca a questi mercati? Quanto durano questi mercati senza democrazia? Trarremo molte lezioni dall'esperienza della transizione a un'economia di mercato dei paesi dell'est. Abbiamo invitato diversi relatori a parlarci di questo, da Gerardo No, Eric Berglof, perché da lì si capisce molto. Noi abbiamo avuto alcuni paesi dell'ex blocco sovietico che hanno abbracciato senza esitazioni la strada della democrazia, hanno costruito dei regimi democratici e al tempo stesso hanno creato dei mercati dove non esistevano. Ma abbiamo altri paesi che hanno abbracciato questa strada, hanno imboccato questa strada con assai maggiore esitazione, dove non abbiamo delle vere e consolidate democrazie, né abbiamo dei mercati che sono fino in fondo operativi. Da questa differenza di esperienze possiamo capire molto. Quello che sembra emergere dalla ricerca di cui discuteremo è che ci sono dei processi virtuosi e dei processi viziosi, se volete, che si mettono in piedi, dove c'è crescita, si crea più sostegno alla democrazia e a sua volta la democrazia alimenta più crescita e anche più coesione sociale. In altri paesi invece in cui si comincia ad avere poco sostegno per la democrazia esplodono le disuguaglianze e questo a sua volta riduce anche il bisogno e la richiesta di democrazia, perché spesso proprio sono i paesi in cui c'è meno uguaglianza nei redditi, in cui c'è più polarizzazione nei redditi, in cui c'è meno supporto per la democrazia. Discuteremo cosa avviene comunque anche nei lunghi periodi, nel corso dei secoli, nella relazione tra crescita e democrazia. Sembrerebbe che effettivamente se si guarda a democrazie consolidate, democrazie che esistono da secoli, bene, in questi casi le democrazie consolidate tendono in genere a essere presenti solo in paesi che sono relativamente ricchi. La democrazia consolidata porta alla crescita, se guardiamo in tempi lunghi. E poi guarderemo però anche a come i paesi in via di sviluppo possono abbracciare e coniugare insieme mercato e democrazia e quali sono le barriere, gli ostacoli che in questi paesi impediscono sviluppi democratici, al tempo stesso l'uscita dal sottosviluppo. Un fattore importante cui dedicheremo molta attenzione al festival è quello della diversità etnica. La diversità etnica può essere in molti paesi qualcosa che ostacola sviluppi democratici, ostacola al tempo stesso anche la crescita economica, impedisce che migliori la qualità delle istituzioni e che quindi si mettano in moto quei meccanismi virtuosi cui accennavo prima. Ma qui ci saranno tanti economisti che parleranno, non solo tra di loro, ma parleranno anche a studiosi di altre discipline che proprio su un tema come quello di mercato e democrazia richiede proprio il dialogo, la compenetrazione di discipline, di approcci molto diversi tra di loro. Ma anche gli economisti sono innanzitutto anche dei cittadini e sono dei cittadini che sono fermamente convinti dei valori della democrazia. Quindi ci chiederemo anche come è possibile cercare di instillare, di creare delle condizioni democratiche in quei paesi che oggi hanno un mercato ma non hanno una democrazia. È una battaglia che si conduce sotto diversi piani, non soltanto quello dell'economia, si conduce anche sul piano della circolazione delle informazioni, delle limitazioni. È una battaglia che si conduce anche sul piano dell'ideologia. Alcuni dei relatori parleranno per esempio di da che cosa nascono, quali sono le fonti, le ispirazioni dei sovvertitori della democrazia, per esempio dei terroristi. Sono ragioni economiche o sono ragioni ideologiche? E molte delle risposte saranno proprio nell'ideologia. Quindi per sostenere la democrazia laddove questa non c'è oggi, abbiamo bisogno anche di condurre una battaglia ideologica. Dobbiamo al tempo stesso aumentare l'informazione. C'è più democrazia dove c'è meno concentrazione dell'informazione. Questo sarà uno dei temi anche che verrà affrontato in questo festival. E ancora, c'è una relazione molto stretta tra la possibilità di avere delle democrazie sviluppate, di rendere in qualche modo la classe politica, la classe dirigente, responsabile di fronte agli elettori, avere una vera accountability e livello di istruzione della popolazione. È una relazione anche questa molto importante a cui dedicheremo diversi degli incontri del festival. Ma poi guarderemo anche a delle dimensioni più non sistemiche, diciamo, di relazione tra mercato e democrazia. Guarderemo all'interno delle imprese, in che misura le imprese riescano a coniugare efficienza e democrazia. Devono le imprese diventare più democratiche per essere efficienti? Quindi sono davvero tante le dimensioni in cui studieremo il rapporto tra mercato e democrazia. Non su tutte queste questioni, come ricordava prima Cipolletta, sapremo dare delle risposte conclusive, ma il bello del festival è quello di aprire una discussione e di aprire un dialogo, un confronto tra persone che da anni che hanno dedicato la loro vita professionale alla ricerca su questi temi e chi magari vive nel concreto della vita quotidiana, della propria esperienza di vita, queste questioni dal vivo, e credo che da questa interazione si possa imparare molto. Grazie.